Moro giace nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani. Per l'Italia intera niente sarà più come prima, eppure per le famiglie di Ricci, Leonardi, Rivera, Iozzino e Zizzi ora è necessario provare a tornare a vivere, a parlarcene Ciro e Vincenzo Iozzino, fratelli di Raffaele Iozzino. Maria Ricci, moglie di Domenico Ricci, Ileana Leonardi, moglie di Oreste Leonardi, e Angelo e Carmela Rivera, fratelli di Giulio Rivera. Hanno fatto una cosa che hanno distrutto delle famiglie e dolore a chi resta, diciamo, per familiare perso. Mio padre pure, diciamo, da quell'evento, diciamo, non è che si è ripreso, diciamo, comunque l'ha sentito una botta pesante. Ho dovuto interrompere gli studi perché non riuscivo più a proseguire nella normalità. In famiglia praticamente c'era una grossa spaccatura a livello di... si era persa quella tranquillità e quindi tutti quanti eravamo più nervosi, quindi c'erano continui litigi anche fra di noi causati appunto da questa angoscia che prendeva un po' a tutti quanti. Io aspettavo sempre che arrivava lui, cioè, da Roma, veniva a prendere a Napoli o che ne so, a Castellammare. E io a volte mi sfugge ancora, diciamo, io forse sto ancora a Roma a fare servizio, tutt'oggi, perché abbiamo sempre quella cosa che deve ritornare un domani, diciamo, da però purtroppo è finita così. Perché sono un fratello e ti appartiene. Dentro questi anni c'è stato tanta disperazione, tanta rabbia, tanta angoscia. È stata una lotta veramente atroce, una lotta, è stato un calvario che non finiva più. Pensavo proprio che non è... c'erano dei momenti che dicevo non so se gliela faccio. Io avevo fatto però una promessa a mio marito, ho messo una foto di tutti e quattro dentro il fornetto lì alla cappella, al suo loculo. Gli ho detto: Mimmo, tutti e quattro siamo qui, ti prometto che ti porto avanti i figli come li volevi tu. E questi sono stati per me tutti quegli anni, perché io ho voluto portare avanti i figli come voleva lui. Mix 24, la storia. Dottor Antonio Marini, magistrato della Procura Generale di Roma che indaga nell'ultima inchiesta sulla strage di Via Fani del 16 marzo 1978, in particolare sulla vicenda di una moto Honda che ci sarebbe stata in Via Fani durante l'agguato alla macchina di Aldo Moro e alla sua scorta. Magistrato, è appurato che questa moto c'era? Ma si sa chi la guidava? Certo, ormai è accertato che la moto c'era, è stata accertata attraverso un processo, il cosiddetto processo Moro 1, Moro bis, con una sentenza passata in giudicato. I giudici della prima corte d'assise di appello in quel primo processo hanno accertato che alla strage di Via Fani ha partecipato anche una moto Honda con a bordo due persone, che addirittura una delle quali ha sparato contro Alessandro Marini, che si trovava sul suo motorino all'incrocio in via Strese e non poteva passare in via Fani. Ma i nomi non ci sono? E i nomi purtroppo ancora non ci sono, e questo è il mio grave cruccio, il mio grande rammarico. Però io credo che i tempi forse sono maturi per l'identificazione finalmente di queste due persone, di cui i brigadisti non hanno mai voluto parlare, perché i brigadisti negano addirittura la presenza della moto Honda in via Fani. Ma secondo lei non parlano per qualche motivo? Certo, un motivo ci può essere, quello di non coinvolgere i loro complici, cioè persone che come loro all'epoca facevano la lotta armata, come è accaduto per Germano Maccari. E Germano Maccari, il famoso quarto uomo di via Montalcini, di cui si è tanto parlato, per 15 anni era rimasto nell'oscurità, perché i terroristi non ne avevano mai parlato. i terroristi dissociati, pentiti, non parliamo di terroristi come Moretti per esempio o Gallinari ed altri che non avevano mai voluto rendere dichiarazioni e quindi offrire un contributo all'accertamento dei fatti e alla ricerca della verità, ma anche terroristi come Morucci e Faranda avevano escluso la presenza di Germano Maccari in Via Fari. Si parlava del quarto uomo e si parlava addirittura dell'uomo dei servizi segreti, del Mossad eccetera, e noi invece abbiamo accertato a 15 anni di distanza che si trattava di Germano Maccari, che era un irregolare delle Brigate Rosse, che ha svolto un ruolo importantissimo in quella prigione del popolo, perché non solo ha aiutato la Braghetti a tenere Moro prigioniero, sostenendo la parte del marito, signor Altobelli, l'ingegner Altobelli, per i vicini di casa, ma addirittura ha preparato la cassa entro la quale è stato messo Moro dopo il rapimento per essere portato via Montalcini. Germano Maccari addirittura ha partecipato all'omicidio di Moro, quando Moro fu trasportato in quella cassa o in quella cesta di vimini di cui parla la Braghetti nel garage di via Montalcini e fu ucciso proprio da Germani Maccari e da Moretti nel portabagaglio di quella Renault rossa che poi sarà depositata in via Gaetani, dove sarà scoperto il cadavere di Moro. Avete accertato che è stato lui? Abbiamo accertato che è stato lui e io ho ottenuto al Moro Quinquens la confessione. Ma lei pensa che i tempi siano maturi adesso? Io penso che i tempi siano maturi perché c'è una commissione d'inchiesta, c'è una gran voglia, vorrei usare questa espressione, di verità e un grande desiderio di giustizia, proprio verità e giustizia che ormai vogliamo tutti, perché come le dicevo prima una vicenda come questa non può avere ancora questi buchi neri, bisogna fare piena luce su questa tragica vicenda e io credo che questa volta io contribuirò con tutte le mie forze, la commissione Moro io credo che arriverà a fare, almeno lo voglio sperare, a fare piena luce. Ma cos'altro manca in questo puzzle così intricato? Si è ipotizzato ancora, attraverso la prosecuzione delle indagini, che in via Fani, oltre ai quattro brigadisti vestiti da Vieri che poi hanno sparato sulla macchina di Moro uccidendo la scorta. E anche sull'altra macchina uccidendo gli altri agenti di scorta, i tre agenti di scorta, ci fosse un quinto sparatore che se verrà accertato vede che ci sarà ancora una terza persona oltre i due a bordo della moto Honda che è rimasta impunita. Da dove esce fuori il quinto? Il quinto esce fuori da una serie di accertamenti che sono stati effettuati sulla dinamica dell'attentato e soprattutto sulla circostanza del tamponamento o no delle tre autovetture che sono state in qualche modo coinvolte nell'attentato e quindi non si sa il nome neanche. Ancora non si sa chi è questo quinto sparatore, ma ce n'è ancora secondo me anche un quarto. Cioè prima le dicevo che Germano Maccari aveva preparato la cassa con la quale poi Moro sarà trasportato da via Fani in via Montalcini, o meglio non da via Fani dove è trasportato con una macchina, ma in un'altra via di cui adesso non ricordo il nome, in cui è parcheggiato un furgone con a bordo questa cassa. Bene. Morucci e gli altri brigadisti che hanno in qualche modo parlato ci hanno sempre detto che questo furgone è stato lasciato incustodito, ma il buonsenso e la logica dice che non è possibile, perché non si può lasciare incustodito un furgone a bordo della quale c'è la cassa con la quale Moro deve essere trasportato poi in via Montalcini, anche perché noi abbiamo una testimonianza, una testimone, una donna, che ci dice che nel momento in cui c'è stato il trasbordo tra la vettura a bordo della quale Moro era stato fatto salire in via Fani al furgone dove poi era stato messo nella cassa, è sceso un uomo dal posto di guida, quindi vuol dire che questo furgone era lì in attesa di ricevere Moro e di metterlo nella casa con una persona a bordo. Questa persona non è stata mai identificata ancora. Perché? Perché Morucci continua a dire che il furgone è rimasto incustodito. E noi non abbiamo elementi, non abbiamo avuto testimonianze, eccetto questa della donna che aveva visto scendere questa persona, ma non siamo riusciti a identificare chi fosse questa persona. Quindi vede come anche questa quarta persona che ha partecipato in modo attivo all'operazione, secondo me è una persona ancora da identificare e che purtroppo resta ancora impunita. Magistrato Antonio Marini, ma secondo lei il prete Mennini, che è stato ascoltato in commissione e ha confermato di non essere andato nel covo delle Brigate Rosse a confessare Moro prima di morire, lei gli crede? Io devo credere quello che ha detto Monsignor Mennini, che aveva del resto detto anche a noi. Monsignor Mennini era stato sentito già 7 volte, sia dalla magistratura che da altre commissioni, e oggi è andato al... Qualche giorno fa è andata la commissione di Moro e ha riconfermato che lui non è mai entrato nel covo, che lui non è andato mai nel covo per confessare Moro, anche se se l'avrebbe voluto, e che lui si era limitato a fare il postino. Com'è possibile che lui avesse poi le lettere, però? Ma le lettere sono stati tanti postini che hanno portato le lettere di Moro. Non è questo. Don Mennini aveva avuto le lettere perché era il parroco della chiesa di Santa Chiara dove Moro andava, certo, e quindi era collegato anche con i familiari di Moro. Si saprà mai la verità totale? Ma guardi, lo voglio sperare con tutte le mie forze, veramente. Io ce la metterò tutta. Ho deciso di non mollare, nonostante il tempo insomma trascorso, per svolgere la mia parte nel completo accertamento dei fatti, completo, e nella ricerca della verità la più possibile, come lei dice, totale, o che si avvicini alla totalità. Per questo è un'esigenza di giustizia, oltre che un dovere di verità, dicevo, civile e morale anche nei confronti delle vittime di questa tragica vicenda. Grazie.